sembra Ibrahimovic, Majewski, Dostoevsky, passa il whisky, cazzo flexi 38 sberle, amici depressi, anime belle, tutti ceffi. Tu non sei di quei palazzi, la la la la la la. Tre cognomi, zero dignità. Passi di qua, lividi a Pua, sopra il tuo amico Bourgeois. Michalo 20 Campari, parli mi sembri a far la garra. Piscio sui nazi skin, piscio sui maneskin. Arriva Sanremo Sbilenco, faccio la fine di Tenco. Siamo la click, chi sei tu? Luci blu, spunte blu. Siamo la click, chi sei tu? Luci blu, spunte blu. Scusami ma m'ha ammazzato uno sbirro. Dai scherzo, che sfiga. Siamo la click con questi trapper, facciamo la grigia e viva. Siamo le 9 BR, siamo l'URSS, siamo l'Iran, siamo Lenin, siamo Cuba, siamo l'Ira. E questa notte sto sparando per te. Sono a carica dentro al senato, scappo veloce fra resto basso. Io sono il fuoco e brucio lo stato, 320 suonando il clacson. Sparo alla Lega, prendo Salvini, lo metto al contrario, gli mostro il cazzo, gli piscio sul cranio, gli faccio la barba. Dopo lo trucco lo porto a battere. Siamo i migliori di sto set, spocono i cessi del jet set. I miei compari non fanno trap, siamo le fiamme contro il potere. Lascio la pancia del sistema, fra voglio uscire dalla storia. Voglio da giovane si spera, sentire il vomito nella gola. Io sono il figlio di questa city, anche se vende eroina e sui figli, si sono il peggio tra i falliti, ma sono il meglio tra i ribelli. Prendo una lama e poi taglio la gola ad uno stronzo che fa la madama. C'è un altro sindaco fatto di coca che dice merda sulla marijuana. Parla la gang, parlano peste, siamo nervosi, aspettiamo la scuola. Oh, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio ai radioascoltatroci di Radio Wombat. A tutte le entità all'ascolto, bene, sì, siamo tornati. Fiamme e luci blu, da un distaccamento pirata della ciurma, da frittole una zattera si dilegua nel mare in tempesta, e da questo vagare interrompiamo così, scuottiamo quello che sta succedendo in radio, qualsiasi cosa stia succedendo, non ci interessa. Noi siamo qui, fiamme e luci blu. Pure adesso. In piazza scendo col pacco, esplode quindi ti ammazza. Tuo figlio un taglio in pancia quando esco dal reparto. Va bene, va bene, iniziamo veramente carichi con le nuove, con l'album delle nuove BR, i P38, mamma mia, luci blu. E questa è sempre, boh, non si sa, l'arte del dall'arte delle pere, potremmo l'arte dire. L'arte delle pere, non lo so, vabbè, il tempo del vizio. Buon pomeriggio, reverendo. Da quanto tempo non siamo qui a questi microfoni? Sì, davvero, davvero. Che un sacco, bello. Un sacco. E sono molto contento, Gengè, di ritrovare te, ma di ritrovare anche una nuova, vecchia, giovane voce che forse non ha mai parlato a questi microfoni. Non mi ricordo, sinceramente. L'ho salito qua una volta, ma mi ero sbagliato. Cioè, salito. Stava cercando il bagno e ho trovato frittole. No, c'era hai visciato in un secchio? Sì, c'era un artista che suonava in Svizzera, mi ricordo, emergente, che faceva musica di strada. E io ero uno di quei ragazzini svizzeri che dava i soldi a questo musicista. Ah, sei svizzero? E mia... No, no, no, no, ma sono un ragazzino svizzero, non sono svizzero. Ah, ok. E niente, era venuta questa puntata di presentazione del disco e dalla Svizzera, ed era stato molto, molto avevi piacevole. Avevi prenotato, sì, il biglietto sul Booking? Sì, sul Booking, c'è la sezione frittole sul Booking. Sì, sì, sì. Sono molto agitato comunque, sì. Si, esatto. Vede, si vede. Come ti chiami? Come ti chiami? Presentati. C'era ancora un dibattito, appunto, se presentarci Arsi no. E Arzu. C'era un dibattito Sergio Floccari, comunque. Sergio Floccari, sì. Salutiamo Sergio Floccari, mi raccomando. Sergio, anche Sergio, entità all'ascolto, siate clementi con Sergio. E qui è la prima volta che si espone così a questi microfoni. Bisogna, ci vuole un po' di calore, no? Sì, sì, assolutamente. Entità all'ascolto, diamo un ottimo, un grandioso benvenuto al brillante Sergio Floccari qui con noi. Grazie, grazie, sono un po' agitato appunto. Benvenuto, benvenuto. Ma si sa, Fritto lei fa sempre questo effetto le prime volte. E niente, proviamo a cambiare un attimo sto tappetino. È un po' così, rilassato. Vabbè, è anche domenica pomeriggio, però dai, non possiamo chiedere troppo a questo tappetino. Anche lui sta digerendo, sì, cazzo. Sì, però, cioè... No, svegliamolo, famo domenica... il caffè. Se posso permettermi, è bellissimo che siamo in diretta in una giornata così, oggi 19 novembre, bellissimo ritrovarci qua di nuovo. Nel fascino della diretta, da domenica pomeriggio a novembre, poi chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati qua? Bellissimo. Tutto può succedere a novembre. Quando eu entro o foco se move, talento aqui chove, claro que o povo me ouve. Só pongo love, tô com a buraca, abro fronteira. Não digo lixo, nem digo asneira. E o microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola o mundo cubita, mas é o povo que te feitiça. A pong no beat capricha, porque sou rara tipo Velvitch. Sou mesmo eu, é da mangas muito agressiva. Me derrubar nem como a cumba, sou criativa. Giusto per rendere partecipi, qua è in atto un dibattito sulla natura eterea o durevole di questo avvenimento così. Sì, ricordiamoci che gli 00110 restano impressi per sempre nella rete, anche se non lo vogliamo, in ogni caso. Quindi il dibattito, che famo? Registriamo? Non registriamo? Salviamo? Non salviamo? Lasciamo tutto alla memoria o alla memoria computerizzata? Dipende se abbiamo affrontato abbastanza intensamente il problema della morte. Ci scusiamo con l'entità all'ascolto se mettiamo così tanta musica tra una spezzetta e l'altra, tra una minchiata e l'altra. Ci rendiamo conto che è un po' difficile seguire il discorso. Ma tanto non c'è un discorso da seguire. Ma come? Spoiler. Mannaggia. Comunque vabbè, Radio Wombat è sempre incredibile. Ci piace scottare le frequenze anche perché nessuno stava andando in diretta e boh, abbiamo così questa missione etica di salvare poveri ascoltatori e ascoltatrici dagli Smiths, dall'ennesimo pezzo. Sì, esatto. Degli Smiths. È Dio. Partito così con uno spirito proprio umanitario e piratesco. Che ci contraddistingue. Chi più umanitario dei pirati? Nessuno. Nessuno. Ma poi stava girando musica di merda, se posso permettere. Appunto, sì. Appunto. No, vabbè, Sergio, ok, che sei appena arrivato, però ti concediamo queste cose. No, vabbè. Sono un po' agitato, ma comunque non le mando a dire, di certo, ecco. C'è una cosa grande che proprio... Sì, sì. Ricordiamo che Sergio Pizzoccheri non ha peli sulla lingua. Floccari. Sergio Floccari diventato Sergio Pizzoccheri. Io comunque, il mio microfono clipperà sempre, ma non sì, c'è modo. Vedi, guarda come fa, guarda come va. Scusate tutti. Troppo potente per questo pianeta. Sì, è vero? La mia voce ti disturba. Allora, in realtà qualcosa di un minimo sensato, sensato forse no, però ragionato un minimo. Piano con le parole. Piano, esatto, calmi tutti. aprirmi. E questa cosa è uscita fuori, no? Questa cosa del test delle persone. Perché ho detto, che famo? Adesso siamo qui, accendiamo i microfoni e che diciamo? E ho detto, beh, diciamo cose, no? Leggiamo cose. E questa cosa è il test della personalità. 16 personalità fatto di non lo so da chi. Non mi interessa andare in questi dettagli. Carl Gustav Jung, comunque. Forse okay. Anche lui c'è in mezzo, perché comunque c'è in mezzo sempre. Beh, direttamente da 16personalities.com. Esatto. E ci sono un tot di domande, veramente un tot. Però comunque il sito ci dice che ci vogliono meno di 12 minuti. Quindi ci avverte, dice non ti preoccupare, non ti ammorbo per più di 12 minuti. Grazie. E queste domande verranno risposte alternatamente dal reverendo e da Serge. E Serge quello che Serge, senti, sta a romper cazzo. Io non me lo ricordo il tuo nome. Fammo che ti Vabbè. Chiamo Serge. O ti disturba molto questa cosa? Un po' maltrattare. Ma sì, Serbino. Chiedo umilmente perdono per questo maltrattamento illecito. E il risultato della personalità che uscirà fuori sarà una crasi della personalità di il reverendo e di Serge. E in realtà il risultato della loro sincerità, perché vediamo se saranno sinceri nelle loro risposte. Ma chi è che poi controlla? Può controllare questa veridicità dei nostri? A nessuno. Io lo vedo dal tuo sguardo, se menti o no. Ti conosco. No, più che altro, cosa significa crasi? Volevo vedere una cosa. La crasi? Ah, no, no, vabbè, perché uno viene in radio, fa lo splendido, certo. La splendida, inizia parole a caso. Vabbè, ma questo è Gengè, tipico sì, Gengè. No, transustanzazione. Sì, enjambement. Tipico Gengè che alza la posta al di sopra delle sue possibilità, anche lì lessicali. Allora, io comunque, prima di iniziare con questo test delle 16 personalità, ci terrei a mandare una traccia per augurare un buon anno a tutti. Allora, giusto un piccolo inciso per quanto riguarda Matsuken Samba 2. Matsuken Samba 2, ricordiamocelo. Il ritorno. Tipo Kill Bill. Allora sì, questo è un ottimo video che potete benissimo trovare su YouTube. Basta che scriviate Matsuken Samba 2, ed è dell'inizio degli anni 2000, in cui questo fantastico famoso cantante pop giapponese si è deciso a fare un album con sonorità latine per le sue parentele strettissime, esatto. Il Sud America e il appunto... chiari richiami, insomma, la sua tradizione, assolutamente, in qualche modo. Sì. E per cui questo video, comunque suo malgrado, è diventato un meme, perché effettivamente, cioè, se ve lo andate a vedere, è un meme questo video. Tu dici, cioè, suo malgrado, non pensi che sia stato comunque modo un suo disegno, un no, suo piano? No, secondo me no, però veramente che appaiono in questo video con questi vestiti dell'epoca, di un'epoca ottocentesca giapponese, però sono, cioè, pieni di paillette e sbrilluccicano tantissimo. Adoro. Fanno dei balletti incredibili, per cui vale la pena. Bene, bene, adoro. Allora, io direi che possiamo iniziare a leggere un po' di domande. Chi vuole iniziare? Io clip. Ma no, lo teniamo solo, cioè lo sentiamo solo nelle cuffie, secondo me. Va bene, va bene. Lì non clip, va bene. Va bene, va bene. Un po' una crasi. È un po' una crasi. Nel dubbio. Chi vuole iniziare? Su. Dai, vado io. Vai tu. Benissimo. Sì, comunque, sì. Questo sottofondo un po' mi disturba. Ecco, non vorrei bene, che questa cosa. No, vabbè, cambiamo. Fosse condivisa da. Allora, ho messo un tappetino a caso sul mio hard disk. Adesso vediamo se parte. No, non parte. Ma no. Sarà noiosissimo. È noioso? Cioè, il primo pezzo non napoletano, comunque, adesso criticarlo e toglierlo mi sembra un po' eccessivo. No, okay. No, ma giapponese, non mi disturba, scusami, ho sbagliato a dire, volevo dire mi distrae, perché è talmente così appassionante che mi concentro all'ascolto invece di concentrarmi su quello che dobbiamo fare, capito? È quello in realtà poi il problema. Ma ecco, quindi Matsuken Samba via, e abbiamo dentro, ci sono gli In Technicolor, però non so se vi piacciono, cioè. Va bene, va bene. Adesso ci cerchiamo. Magari. Oddio! Giusto un pochino più basso, però va bene. 16 personalità. Approva, disapprova. Partita la gem. No, vabbè, andiamo, ritorniamo su qualcosa di un attimo più elettronico. Rimetti la samba giapponese. Un attimo, non ho capito bene un passaggio. Un giro di do. Vai. Va bene, torniamo con la Sbistex. Tanto le avete già ascoltate in alcune puntate. Vabbè. Ci piacciono. Va bene, va bene. Ci partiamo. Scaldano il cuore. Sì. Allora, Serge. Perché esce così poco il nostro volume? Perché siamo così bassi? Siete bassi di statura? Di rilievo sociale? Siete bassi? Non lo so. Io però sento bene in cuffia. Sì, anch'io. Non so se. Vabbè, andiamo. Vabbè, magari. Boh. Alziamo un pochino, giusto per rompere un po' le cuffie delle persone che sentono. Vamos. Okay. Allora, Serge, prima domanda. Tu sai le regole del gioco? No. Le regole del gioco sono queste: domanda, risposta, approva, disapprova. Quanto approvi, quanto disapprovi. Cioè, fondamentalmente, quanto sei d'accordo con l'affermazione della domanda. La prima domanda è: trovi difficile presentarti ad altre persone? Sì, tantissimo. Quindi approva 1, 2 o 3. Approvo 10. Il massimo. Devo venire in radio e dire che mi chiamo Sergio Floccari, quando in realtà non si può dire. In realtà non si può dire. Potrebbe anche essere davvero il mio vero nome, ma non me lo ricordo. Però sì, almeno 10 mi agita. Sì. Sono agitatissimo comunque, se potevo ricordarlo. Se sentite la voce un po' tremolante, perché sono agitato. Comunque sempre supporto a Sergio, sì, grazie, non ti preoccupare, grazie. Ti supporto. Tutte le persone all'ascolto. Reverendo, spesso sei così sovrappensiero da ignorare o dimenticare l'ambiente circostante. Ma allora, ma sovrappensiero, eh? Sì. Addirittura. Sì. Ma perché? Vabbè, allora. È un po' sovrappensiero, reverendo. Sì, sì, no, allora va bene. Ascoltando. Va bene, io penso che metterò. Approva, non tre, non un'approvazione piena, perché due. Spesso no, però sicuramente quando faccio la radio sì, sì, per cui un due di approvazione. Due sì. Di approvazione, benissimo. Andiamo avanti così, spediti. Serge, cerchi di rispondere alle mail proprio a te questa no- il prima possibile. Non sopporti che la cartella di posta in arrivo sia disordinata. Questa è una cosa che non riesco a gestire, sì, assolutamente. E inizio a dubitare che questo test sia stato stilato da Carl Gustav Jung. Però appunto, però magari non si sa se è reincarnato. No, no, devo dire che non mi dà molto fastidio. Gestisco abbastanza diligentemente i flussi di posta elettronica e quindi no, devo dire che non mi capita mai, cioè, leggo sempre tutto appena riesco e condivido, pubblico, posto, share, ring. Disapprova al massimo, quindi no proprio. No, al massimo mai, perché comunque non potrei mai esprimere un massimo mai, no. Disapprova due. Va bene, è onesto comunque, apprezzo la sincerità che è tra le indicazioni del test. Mi raccomando, rispondi onestamente. Ecco, anche, onestà. Anche se non ti piace la risposta. Esatto. Reverendo, ti è facile mantenere la calma e la concentrazione anche sotto pressione? Calma sì, concentrazione no. Quindi, approva 2. Sì, farò di uno schema classico, approva 2. Serge, di solito non inizi le conversazioni. In tilt. È una cosa in negativo che se vuoi approvare devi negare. In che senso? Cioè che non sono io a venirti a chiedere come stai, come è andata la partita di pallone domenica sera, no? Cioè questo intende secondo te Gustav Jung? È questo che intende? O suo pronipote. O suo pronipote? Sì, che solitamente non sai quello che in momenti di imbarazzo, di silenzio, momenti di convivialità inizia le conversazioni. No, allora sì, sono spesso io, perché sento un horror vacui davvero molto vasto e quindi io spesso e volentieri interrompo i silenzi in maniera anche piuttosto violenta. Sì. Hai dei problemi col silenzio? Sì. Come mai? Se puoi alzare un po' la musica te lo spiego meglio, perché sento la mia voce solo rimbombando. Se puoi mettere un pezzo bello rumoroso, un po' paurissima di questo. Infantile, quindi deriva dall'infanzia. Quindi metto un disapprova totale. No, perché abbiamo detto disapprovazione totale. No, adesso ci vuole un po' di totalità. Adesso iniziamo a uscire gli estremismi. Sì. Bene, mi piace piano, questa deriva. Sì, piano piano. Reverendo, raramente fai qualcosa solo per pura curiosità. Disapprova totale. Sì. Penso che è l'unica risposta plausibile. Serge, ti senti superiore ad altre persone? In che senso? Ti senti superiore alle altre persone, cioè comunque quando vai in giro per il mondo senti di muoverti comunque a una spanna sopraelevata rispetto alle persone che hai intorno. Sì. Approva. Sì. Totale. No, non totale, però insomma ho letto molto Nietzsche e mi garba. Risuona. Sì. Quindi metterei un 2, sì. Approva 2. Noto un pattern comunque, ragazzi. Ricordiamoci l'indicazione del test che dicono di essere sinceri. Io sono sincerissimo. Rispondi onestamente, tra parentesi, anche se non ti piace la risposta, io ogni tanto lo rileggo. Vabbè, ti senti superiore, però ti senti superiore rispetto ai tuoi standard, cioè non o all'etica culturale generica, cioè sei in uno status sociale particolarmente alto, cioè particolarmente i soldi che ti escono dal culo. Non lo so, sei... No, una superiorità morale. Ma morale proprio, morale. In senso kantiano. In senso kantiano. La verità di com'è il cielo stellato sopra di me, esatto. La legge morale dentro di me. Va bene, imperativo categorico. Onesto. Non mi piace come risposta, però la do lo stesso, perché le indicazioni del test dicevano di dare onestamente le risposte, anche se giustissimo, non... grande Sergio Mattarella. Un applauso. Un applauso. auguri. Uno stacchetto, ci abbiamo Mameli? No, niente. No, però ci starebbe uno stacchettino. Va bene. Ma forse abbiamo in collegamento proprio Mattarella. Dovrebbe tra 20 minuti dovrebbe. Sì, ci abbiamo direttamente. Sì, ma ci abbiamo un pezzo del nuovo album di Mattarella. Come si chiama? Eccoci di nuovo. No, sì, si chiama circa così. Ricominciamo. Fuck, I did it again. Chiama da mamma, chiama da mamma, e fate tutte nome bandite, a una sanno burta, da uma mo che esce si tratti c'è bandito, a uma non mi parla, non nega, perché i soli, perché tu sei tu, stanta zitta, non di, sangue su, regavi, se non fa, ma la vita. Tieni i soldi, vai da lì, buona male, cumari, fa una cosa, siamo lì. Se manca tu guarda, voglio una vita. O dico perché tu che le fatte, le fatte, cazzo una gananza chiamava mic. Tu sono passata manca in bassa, guai signora bella, ha resciuta chi là. Si da mamma su, ma voi siete foto modella. Pure l'occhio lì, non famo che te cazzo fa. Prima che faccio con mamma, da tu mira che fa. Chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma. Chiave da mamma, tanto che è bravo, che ti chiama figlia puttana, come padre da riguttare, mo che sono di ostonga casa, ma bond casa, nicta ma moggio non sa balonse per casa, ho preso se casa, non conta me avanse, ma vuoi di scelte da che cante di massa, fatta gato, canta ne do, se ne do, che paura in quelle mie gallina venga di fuori, indorre prima scatterisa, tu non nuovi ho speranza e ritorno, sono morito senza partenza, figurami c'è la riva, sempre forte come prima. Non è mai capito niente musica, ma manca mezza vista in damero da pin. Pin e non può pava, tin e non può para, o te e manco pora. Fa una cosa ne hai fatto cuca, prima che mi tocca. Nel vaturo cute per te dimmi pure a Luca. Come tu ne tacca, vira come sto ca. Se sei figlio guardiere tu già sai che le che fa. Chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma, chiava da mamma. E comunque questo era proprio, secondo grazie me, Sergio. Grazie Sergio Mattarella. Quello grazie che Sergio. Non ha potuto dire, perché comunque come sempre l'arte veicola i sentimenti, insomma, un po' più inespressi, no? E quindi lui ci ha detto quello, ci ha dichiarato quello che veramente sente per noi Mattarella. Sì. Sergio ci ha dedicato questo album e io sono molto contenta. Più che altro io non mi aspettavo, cioè ho sempre visto molto impassibile, molto un contenimento proprio. Come i veri artisti come si veri esprimono artisti, solo nella loro arte, sì. Nella loro verità. Comunque una vera superiorità morale anche quella di Mattarella. Ma infatti mi rifaccio, cioè, mia madre mi ha dato il nome proprio certo. Per quando ancora Mattarella non era Presidente della Repubblica, però già intravedeva superiorità morale, mia madre ha voluto sì, omaggiarmi così diciamo. Quindi tua madre ti ha indirizzato comunque sì, su sì, questa sì, sì, via di moralità. Sì, sì. Devi molto a tua madre. Devo tantissimo. Non so se c'è questa domanda, però se ci fosse tu daresti a prova te. A quanto daresti tua madre tutto? Intanto se ci sta ascoltando, ciao mamma, e mi dispiace perché davvero non credevo di aver tirato sotto quel passo. Vabbè, ma quelle sono cose che scusa, è una cosa nostra. Mi dispiace. Non sapevo fosse vabbè, vai, ciao mamma, scusa, ciao. No, no, va bene, Radio Wombat è aperta anche a queste cose. Giustamente intime. È una radio che si vuole occupare di temi sociali ed è giusto così. Cosa c'è più sociale di tua madre, d'altronde Sergio? Chiama da mamma. Amaro della vita, vai, scendiamocene un altro po'. Comunque, continuiamo con il test. Dai. Toccava reverendo, se non sbaglio. Per te essere organizzati è più importante dell'essere flessibili. Pensa questo. No, mi sto interrogando sul concetto di flessibilità nella mia vita, cioè no, penso che sia più importante essere flessibile, ma non intanto come lo intenderebbe Renzi, non so come però dire. però per ideologicamente per te è più importante essere flessibile, ma effettivamente per te nella vita quotidiana poi di fatto ti fai prendere più dall'organizzazione o dalla flessibilità? Ma penso di trovare degli equilibri buoni tra entrambe le cose. Penso di, come dire, passare da una cosa all'altra abbastanza agilmente a seconda di quello che ho bisogno nel momento. Sei un parkourer della flessibilità. Sì, zio, cioè è il 2022, Cristo. Quindi disapprova poco. Ma io metterei o in centro o disapprova poco. E devi decidere. No, in centro no. Non posso decidere io. Centro no. Dai, vabbè, mettiamo un disapprova 1. Disapprova 1. Sì, vai. Ultimo classico. Sergione, di solito ha un'elevata motivazione e molta energia. Ma perché lui c'ha le domande più belle? È andata così oramai. Rifare. Di solito hai un'elevata motivazione e molta energia. Sì, dai, alla fine, data la mia superiorità morale comunque nei confronti della plebaglia, della massa, se così ancora, se di massa ancora si può parlare. Non esistono più le masse. Io direi che il 75% di questa superiorità morale è data dalla mia grandissima energia e sì, voglio di mettermi in gioco, insomma, in questo mondo comunque che continua a cambiare. Perché sei un self-made man comunque. Sono un self-made man, sì. E non è davvero, sì, ci do tutto me stesso, ecco. A prova 3. Vamos. Bellissimo. Grazie mamma anche per l'energia che mi dai, grazie. Comunque viene tutto da lì. Sì. L'origine, il logos. Per te, reverendo, vincere un dibattito è meno importante allora attenzione, questa è complicata. La rileggo. Per te vincere un dibattito è meno importante del fare in modo che nessuno si arrabbi? No, per me è meno importante. Cioè, quindi approvo, no, ok, è meno importante. Cosa è più importante? Sei un fascista. Non ho capito, fammi. Allora, ci sono due cose. Sì, no, l'ho capito. Vincere l'ho un capito. Dibattito e fare in modo che nessuno si arrabbi. Qual è la più importante? Allora, secondo me con la rabbia si va da poche parti. Secondo me. Soprattutto in ambito. E quindi? Quindi approvo a pieno. Okay. La più grande lezione che tra l'altro il Presidente della Repubblica ci ha dato, che con la rabbia non si va da nessuna parte, perché avrebbe potuto incazzarsi. A parte incazzarsi che nelle molto... canzoni comunque. Esatto. E lasciamo la rabbia nell'arte. All'arte. Questa è una grande morale comunque, a proposito di morali. Andiamo avanti. Prendi la rabbia e mettila nell'arte. Diceva Sergio Mattarella. Aspetta, stavo cercando di alzare la musica, non ci sono riuscito. Non c'è modo, perché... Perché ho alzato il rig, ma invece bisogna alzare. Ci ho provato. Facciamo finta che so fare la regia. Ancora qui su Radio Wombat, sono le 16:49, esatto. 19 novembre, domenica pomeriggio. Abbiamo una telefonata? No, non è il momento di telefonata. Sì, pronto? Sergio che ci ringrazia di aver spammato il suo nuovo album. Comunque, secondo me ci ringrazierà. Sergio, in base alla tua moralità, qui ti chiede: ti senti spesso come se dovessi giustificarti con gli altri? Altri, sì, diciamo, sì. Comunque è difficile anche reggere il peso di questa superiorità che io sento comunque dalla nascita. Quindi è un po', è una croce comunque che devi. Ti senti affaticato? Sì, affaticato, e quindi devo anche rendere conto di questa fatica alle altre persone. Quindi sono obbligato, io non vorrei, ma sono obbligato a giustificarmi con gli altri. Quindi approverei due. Approverei due. Sì, ok, benissimo. Reverendo, la tua casa, il tuo ambiente di lavoro sono piuttosto ordinati? Sì, metto una bella approva due. Io dopo tutto tra tra una litigata e l'altra ci tengo a mantenere le cose. Certo, forti. Comunque per cambiare, visto che qui si sente un po' di ingiustizia e dici che le risposte di Sergio sono, le domande di Sergio sono più belle, io te ne faccio un'altra di nuovo. No, vabbè, mettiamo il pattern. Dopo ricominciamo il test scambiati. Ne facciamo una, vedi che le domande sono le stesse. No, no, io sono d'accordo. Un'altra domanda al reverendo. Vai, non c'è un'altra, va bene, scambiamo. Va bene. Tanto tutto... io non ne ho bisogno comunque. Certo, perché tanto le non ho bisogno. Quindi, di nuovo reverendo, non ti dispiace essere al centro dell'attenzione? Ah, no, no, no, qua sono neutrale. Grigio, pallino grigio. Grigio, totalmente grigio. Sì, benissimo. Sì, sì, sì, perché un po' mi dispiace, però... Un po' ogni tanto ti piace, ti allatti. Sì, dipende dal contesto, capito? Certo. Dipende troppo dal contesto. Ti allatti? Sì, sì, sì, sì. Espressione gergale. Ah, ok. Fatto un sorso di amaro la vita. La mia vita è più amara in questo momento. L'hai anche finito? No, ho finito, io? No. Stai sbagliando. Quale sei me? Lei che fa queste accuse, ti consideri una persona più pratica che creativa? No. Decisamente no. Decisamente no. Punto. Direi disapprovo 3. Ecco, drastico. Siamo passati da un neutro a un disapprova 3. questa personalità, come ricordiamo in tutto questo che le domande in realtà sono uniche, cioè lo stanno rispondendo in due, ma il profilo che uscirà sarà unico. Solo uno, cioè, verrà fuori una crasi di quelle proprio. Reverendo, come ti chiami di cognome tu? Floccari, Sergio. Reverendo Floccari. Quindi la personalità di Reverendo Floccari, sai come sarà. Onestà, reverendo, raramente le persone ti fanno arrabbiare. Anche lì dipende troppo dai momenti della vita. È una questione quantitativa, cioè proprio a livello di statistica. Cioè, sono più le volte che la gente ti fa arrabbiare. Allora è proprio a prova 2. Prova 2, perché raramente. È abbastanza raro. Sì. Ecco, facciamo un po' di analisi del testo. Io posso confermare, comunque, conosco il reverendo e non si scompone facilmente. Grazie, rabbia, Sergio. Sì. Poi in privato a volte così sento un po' di furore, però vabbè, controllabile. A proposito di furore, vogliamo mandare un po' di rabbia così musicale. Dal nuovo, ce l'abbiamo un po' di rabbia musicale. Disco di Mattarella o ancora? Non so se ci sta. Avevo sentito comunque rabbia musicale. Era forse il prossimo album. Forse stiamo un po' spoilerando. Il prossimo album di Mattarella. Rabbia musicale. Beh, non l'avevo scaricata, però. Cosa abbiamo nella nostra. Vabbè, faccio un'altra domanda intanto al nostro Serge. Sì, vai. I tuoi piani di viaggio, Serge, di solito sono ben pensati? Assolutamente no. Assolutamente. Proprio il viaggio. Proprio il viaggio in sé non può essere pianificato né programmato in alcun modo. E quindi no, proprio se potessi io approverebbi, disapproverebbi 8. Questo 3 è limitante. È radicale la mia. Ti senti poco rappresentato da questo 3? Assolutamente. Ho smesso anche di utilizzare le cartine geografiche, proprio per quanto disapprovo. Volete un pezzetto con la rabbia? Dacci un po' di rabbia musicale. Bene, va bene. Anche questa l'avete già sentita sicuramente durante le nostre fantastiche puntate. Sono nato senza paura, ad ogni cosa è più scura, nessuno mai ci ha regalato niente, la gente si muove tutta malamente. Abbiamo affrontato sta vita, vinta la strada sbagliata, insieme ai compagni sempre tutte notte, addosso vivo solo con rispetto. Forse stava scritto già, chi sto destino. Ma la vita, ad amore si scorda, si lana, non sporca e peccato. Ad niente ti pare più giusto, e più niente sbagliato. non ti fidi chi ti sta vicino e ti dice soffrato, che quello che ti va a cantare quando stai carcerato. È un momento di rabbia vera. Questo è arrabbiato, cioè proprio si è arrabbiata, è la radio che si è arrabbiata con noi per questo, era per capire se eravate attenti. Esatto. C'è qualcuno che stava dormendo, sì, tipo al pomeriggio, radio di sottofondo, belle buone, boom, boom, boom. Tra l'altro come se, diciamo, come se qualcuno ci stesse ascoltando, tra l'altro, sì, sì, no, sì, perché ho appena scoperto una cosa che non è che mi sia andata molto... Sì, salutiamo le cinque macchine che continuano ad ascoltare, sì, imperterrite stream punk. Un po' scoccia. Sono abbastanza. Due giorni di viaggio comunque per questa trasmissione, mesi di preparazione. Ti è passata un po' la voglia. Che hai trovato il battello, il biglietto del battello a 9 euro, su Skyscanner. Sono comunque soldi, comunque, per citare. È comunque un viaggio, un viaggio programmato, a differenza, quindi non un vero viaggio. Allora disapproverei due. Allora. È lavoro, non si può tornare indietro, mi dispiace. Dai, andiamo avanti con sto test che io non vedo l'ora di capire. Tu, esatto, tu devi rispondere. Ok. Manda Pacco per il reverendo. Pacco numero 13, scavicchi ma non apri. Spesso trovi difficile capire i sentimenti degli altri. Ma secondo me, per quanto riguarda i sentimenti, metterei un bel disapprova 3, perché mi sento... Se qualcuno me li spiega, io penso che capisco. Però ce li devono spiegare. Ma non solo, no, mi sento abbastanza empatico dopo tutto questo, no? Va bene, disapproviamo. A level 3 of disapprovation. Comunque, credo che anche il reverendo condivida la mia stessa piaga. Cioè, anche lui, credo, dalle risposte che ha dato, che si senta purtroppo superiore moralmente alla stragrande maggioranza delle persone. C'è un'accusa. No, non è un'accusa, è una croce. Io lo so, croce condivisa. Se lui è empatico, io sono compassionevole. Sei compatico. Sono companatico e riesco a capire questo disagio. Perché comunque è una proposta. E ho anche sbattuto contro il microfono. Bellissimo. Potremmo fare una crasi delle nostre tre personalità. Cioè, possiamo, io faccio domande per il reverendo fa le domande per Serge, e Serge fa domande per me. Ok, ok. Vabbè, d'ora in poi. Le jambe male un po'. Esatto. AB. Un chionzo. Era un'altra cosa. Mi sembra un po' perversa. E abbastanza sta, per noi. Direi sì, che sì, si può fare. Sì. Va bene. Quindi ti quindi chiedo chi sono? Chiedo io a Serge. Reverendo, quindi non capisco più. No, io chiedo a te, Serge. Confusa, mezz'ora di radio, sì. Non so più chi sono. Ah, comunque io non mi sento superiore alle altre persone, mettiamolo chiaro, a differenza vostra che vi sentite superiore, merde. Io perché non mi sento superiore. Perché mi stai mettendo in mezzo? Ma già, tu intravisto, non vedi come capto i sentimenti degli altri? Ma c'hai le antenne. C'ha le cuffie apposta. Allora Serge, diccelo, il tuo umore può cambiare rapidamente. Sì, rapidissimissimamente. Approva 3, ma sei sincero? No, adesso sono davvero sincero. Ultimamente mi sento un po' uniforme. E sto parlando proprio a quei 5 bot di merda che ci stanno ascoltando, perché forse sanno cosa si prova. Però devo dire, no, ultimamente mi sembra abbastanza stabile, però sì, posso cambiare nel giro di pochi minuti in maniera anche piuttosto drastica. Umore, sì. Quindi approva 3. Approva 3, sì. Dai. Vai Serge, è l'ora di chiedere alla nostra Genja. Sì, infatti io appunto, sapendo leggere, adesso farò la domanda. Siamo al 30% del test. Gege, sì. Vai, velocizziamo. Sì. So leggere, quindi farò la domanda. Ora deve fare la scenetta, ragazzi. Passano altri 5 minuti in cui Serge va a finire. In una discussione, la verità dovrebbe essere più importante della suscettibilità delle persone. Approva 2. Vai. Cioè, okay. Perché della serie top, la verità ci piace. Top la verità. Bello. Però, bello, cioè, se il risultato Slogan. Deve essere odiarsi, poi la verità non serve a niente. E anche il tappetino è d'accordo. Reverendo, ti preoccupi raramente di come le tue azioni abbiano un effetto sugli altri. Disapprova due. Disapprova due, vai, andiamo adesso a fulmine. Non tre però, no, non tre. No, no, no, a volte non me ne frega un cazzo. E vai, prego Serge, il tuo stile lavorativo si avvicina maggiormente a picchi di energia casuali che a un approccio metodico e organizzato. Approvo tre. Tantissimo. Assolutamente però. Lo spontaneismo come stile di vita possibile, praticamente. Dai. Sei spesso invidioso degli altri? No, spesso assolutamente no. Disapprova uno, dai, per essere sinceri. Ogni tanto sì, però. Ogni tanto. Ricordiamo che è l'unica prerogativa di questo test, essere davvero onesti. Onestà. I nostri 5 bot che ci ascoltano. 5 stelle. 5 bot, 5 stelle. Reverendo, un libro o un videogioco interessante è spesso meglio di un evento sociale. No. Ma se per un libro e un videogioco si intende fare i cazzi miei, quindi metto sì, approva due. Ok, no. Non mi però sembra penso proprio che sia un libro un videogioco. A meno che il videogioco che, di cui stai parlando sia proprio fare i cazzi miei, che è uscito l'anno scorso, tra l'altro gran gioco. Gran ma, gioco, se sì, per produzione? Play 4. Sì, Einaudi Editori. Ok. Autore Sergio Mannarella. No, dai, prova, sì, prova sì. Uno allora, va bene. Non si sbottona. No, due, fai due. Va bene, come vuoi. Vai, Serge, essere in grado di sviluppare un piano e rispettarlo è la parte più importante di ogni progetto. A me fanno tutte queste domande, cioè, lavorative, progettuali. Anche a me prima me le facevo. Disapprovo tre. Cioè, perché se si parlasse in senso assoluto, magari sì, ma per me invece non vale un cazzo niente, quindi disapprovo tre. Bene. Onesto. Giusto. Gang. Raramente ti lasci trasportare da fantasie e idee. Raramente. Prova 8 e mezzo. Ottimo. Ma Jung è comunque davvero. Bomber. Jung Junior. Reverendo, ti perdi spesso nei tuoi pensieri quando cammini nella natura. Hey, I'm in a relentless stage of this shit. I approvo two. Sì, okay. Perché non succede sempre, però sì. Ogni tanto, sì. Cioè spesso, comunque. Often. Oh. It's often like that, I know. Serge, se qualcuno non risponde alla tua email. Sempre le email. Non c'ho neanche il computer, non ce l'ho, ok, vabbè. Diciamo. Cioè, per mettermi a disagio, non capisco se è un tutto fatto in modo che mi avete invitato. A proposito di disagio, se qualcuno non risponde alla tua mail in modo rapido, inizi a preoccuparti di aver detto qualcosa di sbagliato. Io disapprovo tre, ma davvero non capisco se è tutto per mettermi no, a disagio. No, va bene, è che ci sono almeno 15 dei 16 tipi di personalità che ce l'hanno al computer e si preoccupano delle risposte delle persone. A proposito di mia madre, appunto, come genitore preferisci che tuo figlio cresca gentile piuttosto che intelligente? Questa è una domanda difficilissima, cazzo. Prenditi più del tuo tempo, non... È perché il problema è l'out, cioè, porco Dio, posso avere un figlio gentile e intelligente? Deve essere anzi, però forse sei intelligente è proprio gentile. E qui è la domanda: che cos'è l'intelligenza? Perché l'intelligenza nella gentilezza è l'intelligenza emotiva. E quindi l'intelligenza per essere tale dici: vabbè, allora l'intelligenza è a 360 gradi, perché l'intelligenza solo mentale non è vera intelligenza. Però secondo me qui è tipo basta più semplice la questione. No, no, non è per niente semplice. No, no, secondo me come la pone il bot. Certo, questo è un test di merda, se possiamo dire. Che è fatto di email, computer, programmi e cose. Oh, ecco. Che disagio, cioè. Comunque, se dici diciamo che l'intelligenza è anche gentilezza, no, però secondo me è un po' rigirare la domanda a proprio piacimento, quindi va bene, rigiriamo la domanda a proprio piacimento, tanto sì, chi se ne può si botta, quindi approva, due. Quindi gentile piuttosto che intelligente, hai approvato. Mamma, vabbè, è troppo tardi, non si può tornare indietro. Sto iniziando a confondere. Ma perché siamo un'unica cosa tutti e tre, questo vero? È fatto, siamo una personalità multipla, difficilissima da... Non riesco più a rispondere a me stesso, davvero da un po'. Vai, sono curioso di rispondere a questo. Non lasci che le altre persone influenzino le tue azioni. Disapprovo tre. Cazzo, no, così proprio. Tutti ti controllano. Più o meno sì. Mi sento parte del tutto. Soprattutto ecco. Da quando sei tre persone in una. In questo momento senti questa unità particolarmente. Allora, signor Mattarellone Pizzoccheri, i tuoi sogni tendono a incentrarsi sul mondo reale e sui suoi avvenimenti. Dipende, sì, spesso sogno i miei compagni delle medie, delle scuole medie, e altre volte i deliri cosmici, quindi tendono a incentrarsi in mondo reale. Approverei uno. Approverei uno, quindi uno, rimani sì. Un po' sul rimango, neutro. Sì, di solito sì. Vai. Ti basta poco tempo per iniziare a prendere parte alle attività sociali nel tuo nuovo posto di lavoro. Ma allora, posto di lavoro approva due. Tendo a essere di solito spesso in mezzo alla caciara, quindi sì, la verità è così. Posso chiederti qual è il tuo nuovo posto di lavoro? Il mio posto di lavoro? Io lavoro in un in front desk di un'agenzia di cambio. C'è un po' un'incubatrice di startup? No, un'agenzia di cambio, comunque Forex. Ma c'è anche il compro oro? A fianco in realtà, okay. A fianco, però non è un po' casuale, cioè pare casuale insomma la cosa. Sappiamo che queste cose non sono mai casuali. Non esiste il caso, certo. Lei ha più lo spirito da improvvisatore naturale che da attento organizzatore. Oddio, sì, approvo due. Un po'. Mi sento più improvvisatore che organizzatore. Sì. Vai. Prego Serge, le tue emozioni ti controllano più delle email. No, le tue... controllato dalle email. Basta. Le tue emozioni ti controllano più di quanto tu controlli loro. Dura. Dipende dai momenti della vita. In questo momento mi sento di poterle controllare più di quanto loro controllino me. Ma non sempre è così. Quindi sei un po' nel mezzo. Sì, una domanda un po'. Sì. Mi metto nel mezzo, ma ci rifletterò. Prometto ai 5 bot che ci stanno ascoltando di rifletterci per tanto così. Ti metti nel neutro proprio? È il tuo primo neutro? No, aspetta, le tue emozioni controllano più di quanto tu controlli. Sì, allora è il mio primo neutro. Olè. Neutralità. Grazie. Ti piacciono gli eventi sociali in cui ci si deve mascherare o sono previste attività come i giochi di ruolo? La verità? No. I giochi di ruolo mi fanno abbastanza cagare. In generale i giochi nei momenti sociali mi fanno un po'... non cagare, però insomma mi sembra un po' un pretesto per chi non sa socializzare davvero e quindi deve socializzare con i giochi. Cioè non giocare insieme, però il gioco di ruolo, che ne so, il gioco alcolico, queste menate sono un po'... non mi fanno impazzire. Onesto. Preferisco giocare a nascondino a quel punto. Quindi disapprovi? Disapprovo non tre, due. D'accordo. Via. Allora, spesso trascorri del tempo a esplorare idee irrealistiche, inattuabili ma affascinanti. No, mi succede molto poco. Quindi. Sì, disapprovo due. Ma guarda, non l'avrei detto. Ma volete uno stacchetto musicale? No, dai, andiamo avanti. Mi piaceva questa. Vai, Serge, preferisci. Aspetta, siamo al 58%, vedi, stiamo speedando. Comunque okay. Diciamo che ci avremmo messo meno di 12 minuti, passate 3 ore e 40. Sì, capito, quando mai meno di 12 minuti? preferisci improvvisare piuttosto che elaborare un piano dettagliato? Oh, ma tutto è sull'organizzazione. Sì, incredibile. Comunque è fatta proprio per nuovi manager. È per scremare, capito? Sì, direi che approvo 3 perché mi sembra abbastanza. Se ormai l'abbiamo capito, su. Sì, avete capito che tipo sì. Sono, dai, sono un fico che improvvisa all'ultimo, sai, insomma. Sei una persona relativamente calma e riservata. Allora, andando così a istinto, seguendo Gengè, direi: no, ma che sono una casinista. La verità è che in realtà non è che sono così casinista e così screderata, sono anche abbastanza calma. Quindi la verità è una prova 2. No, una prova 1. Una prova 1, scherzo. A prova 1. Perché comunque c'è scritto relativamente. Quindi. Onesto, uno. Tu, se tu avessi un'azienda, quante mail manderesti? Mettiti un attimo con la testa in questo metaverso in cui è un'azienda. Già ce l'hai, l'hai visualizzata? Sì, sto flexando. Quanti soldi hai in banca? Ce l'hai presenti? Stai guardando l'ora sul tuo Rolex? Ma no, ma che è Rolex? Cioè, l'hai coso, dai. L'hai watch? 50 milioni. Ah, ma sei. Ok, vabbè, sei un arricchito, insomma. Comunque, se tu avessi un'azienda, esatto, troveresti molto difficile licenziare dei dipendenti leali ma poco produttivi. Leali ma poco produttivi. No, io preferisco la produttività alla lealtà. Vamos, diciamolo. Devo fare dei soldi. Certo, c'è l'azienda. Chi lo paga l'iWatch? Tu? Tu poco produttivo? No, non mi pare. E quindi no, quindi non lo troverei difficile. Prova 3, dai, mettiamo. Drasticamente. Mi espongo proprio drasticamente. Mamma mia. Chissà quante carriere ha lanciato. Quindi come si chiama questo personaggio? Si chiama Reverendo Sergio Floccari. Florg. Reverendo Floccari. Floccare. Wow, Reverendo Floccare. O Reverendo Floccare. Reverendo Floccare. Wow. Vabbè, mi piace. Cose. Spesso rifletti sulle ragioni dell'esistenza umana. Dicelo, Sergione. Sì, devo dire che dall'alto della tua moralità. Tra una email e l'altra, dall'alto della mia moralità, rifletto, sì. Non tanto sulle ragioni dell'esistenza quanto sull'esistente stesso, di quanto sia ridicolo, davvero ridicolo. Quindi sulle ragioni dell'esistenza, cioè non è un ragionamento particolarmente esistenziale. Sì, è esistenziale, ma proprio sull'esistenza in sé, non sulle ragioni sull'esistente, di quanto sia. No, ho sbagliato a dire, è esistenziale. È esistenziale, non metafisico. Sì, comunque proverei 3, dai. Ah, spesso? No, 2, dai. Ok, 2. No, 3, dai. Ragazzi, troppo tardi. Questa indecisione non ci piace. Andiamo a Gengè. Ma sì, vorrei ascoltare della musica. Vorrei ascoltare un pezzo. Va bene, questa allora. Questa richiesta, Sergio. Sì, abbiamo caricato Bocconi brucia, sempre di P38, L'Argent di Venom Cascadeur, oppure Violence Masqué. Sempre sulla violenza, comunque. Ah, siamo violenti. O sordi o violenza. C'è un pezzo con sordi e violenza insieme, ce l'hai? Bocconi brucia. Bocconi brucia, comunque soldi, violenza, va tutto bene. Insieme. Peter tutta la gang. Sta bruciando la Bocconi. Sta bruciando la Bocconi. Ruba un litro di benzina e dopo dagli fiamma. Sopratori assatanati con la faccia stanca. Sono i figli degli accordi fatti con la mafia. Industriali, politici, sbirri deviati con la merda in testa. Il governo e i suoi cani, anche la sua palestra. Destrano infami per farci la festa. Parli della gang, guarda qua, io penso ad altro. Mi chiede a cosa penso, io le dico sai, pensavo che scopo uno sbirro il giorno che c'ho lights. Sta bruciando la Bocconi, mi seguo, Mario Montifrigo, giuro è tutto vero. Quando ballo quanto cazzo bevo, non mi piace davvero, è il mio alcol ego. Scusa, serata trash, finisco nell'umido, votare la Bonino non vi rende ignifughi. Voglio le matricole nei campi profughi, e ero studentato di lusso e profughi. Miro bene anche se non ammire, spiace sei da ridire. Non hai diritto di parola con sei cifre di ISE. Cambio fuoco come gli anelli al dito, bevo troppo, parlo strano, sembro bifo. Voglio i soldi ma mi fanno schifo, voglio i soldi ma mi fanno schifo. Allora, intanto un salutone a Bifo che per fortuna non ci ascolta. Salutiamo anche l'entità all'ascolto che forse si sono collegate. Pare che siete in cinque oltre alle solite macchine. Speriamo non la Bonino, perché sennò davvero potremmo essere diffidati. Comunque, per interagire con noi, visto che non dovremmo essere in diretta, potete farlo andando sul pad e visitando il link diretta wombat.vado.li. Salutiamo comunque le persone all'ascolto. Oramai si sono fatte 17 e 16 di questo 25 novembre e insomma andiamo avanti da un po' ormai, però continuiamo. E per chi si è collegato adesso, noi stiamo portando avanti in maniera collettiva e schizofrenica questo test della personalità, al quale alterniamo le risposte e alla fine personalità plurima. Esatto, la personalità plurima si chiamerà Reverend non riesco a ricordare il cognome di Floccare, che è una crasi, perché ricordiamo la parola del giorno è crasi. Hashtag sarà bello giungere tra le nostre tre personalità. Sarà bello giungere. È molto bello. Vabbè, chi doveva rispondere? Io l'ho fatta da Sergio. Sì, vai. Allora, la tua azienda ha un falso meno. Quando si tratta di prendere decisioni importanti, la logica è di solito più importante dei sentimenti. Allora, onestamente, per me no, disapprova 3. Cioè, vorrei poter dire disapprova 2. Lo vorrei, logicamente lo vorrei, ma poi di fatto non è così. I sentimenti. Purtroppo sono totalmente devastata dai sentimenti nella mia vita. Certo. Non riesco a ragionare logicamente. Ma traspare anche abbastanza dalle tue scelte musicali. Disapprova 3 e andiamo avanti. Mantenere aperte diverse opzioni è più importante che avere un elenco di cose da fare. No, allora, questa domanda per me è una stronzata, perché una cosa non esclude l'altra. Quindi neutro. Neutro, disapprovi la domanda. E disapprovo la domanda. Mi sembra giusto. Scusate, c'è un silenzio, mi sono sentito di doverlo riempire, un po' di paura di questo. Ricordiamo a chi si è collegato che Sergio Floccari ha un horror vacui congenito. Bastissimo. Allora, regalatogli da sua mamma. No, che poi io mi scordo di fare la domanda. Allora, se un tuo amico è triste per qualcosa, Serge, è più probabile che tu gli offra supporto emotivo piuttosto che suggerirgli dei modi di affrontare il problema, tipo mandandogli una mail con un lungo elenco. Con il tuo bilancio. Insomma, preferisci il supporto. Cioè, è più probabile che tu gli offra supporto emotivo piuttosto che suggerirgli dei modi. Tipo più una birra, più probabile che tra le due. Quindi c'è un'opzione. Ok, supporto emotivo. Comunque. Ah, no, cioè, o gli stai suggerendo di sbronzarsi? Forse. Ah. Che comunque, secondo me, rientra nel supporto emotivo, no? Sbronzarsi insieme, suggerire dei modi per affrontare il problema. Esatto, è ambiguo. Forse potrebbe. Che domande di merda. Sì, cioè, proprio ci vogliono. Ma avete visto cosa sta facendo questo test? Sta cercando di dividerci. Cioè, sta cercando altro che la crasi. Cioè, sta cercando di metterci l'uno contro l'altro in un pomeriggio così del 25 novembre. In cui eravamo qua tranquilli, giornata di pioggia. Domenica, io, mamma mia. Vabbè, io non vorrei neanche più approvare io queste cose. Vabbè, ma metti però, neutro, però posso grigio, dire. Posso dire una cosa, invece secondo me voi vi state facendo prendere dalla trappola. Questa è una trappola. Cioè, queste domande sono provocatorie per farvi scaldare e per farvi abbandonare il fine ultimo, perché il fine ultimo è capire la personalità di Reverendo. Come si chiama? Egreo. Esatto. Secondo me invece chi ha fatto questo test si aspettava che tu avresti pensato che questo test ci metteva uno contro l'altro. Cioè, queste sono dietrologie. La verità, posso fare una domanda? A voi prende bene continuare? Beh, io approvo tre. No, di buono, una volta io voglio sapere che personalità ho, figato, sì, mi interrogo da una vita intera. Ormai siamo al 60%. E allora siamo noi a determinare il modo in cui vogliamo stare dentro questa merda. Giusto. Sì, però almeno riconosciamo il fatto che ci stanno mettendo l'uno contro gli altri. Io non mi sento contro di voi, voi sentite contro di me? Sì. No, io mi sento più contro le domande che non mi stanno più, ecco, soddisfacendo. Allora riindirizziamo la rabbia. Teniamoci contro a proposito la macchina. Di... Esatto. E contro quei 5 bastardi bot che ci sono. No, però facciamo un respiro profondo, per favore. Ok. Prego, Sergio. Okay, va bene, rispondi, grazie. Senza io approvo due, dai. Approvo due. Così, a caso, sì. Va bene. Tanto il gioco è nostro. Esatto. Certo, esatto. Che possiamo anche, esatto. Allora, possiamo rileggere queste regole? Ci vogliono meno di 12 minuti. Ma comunque questa già... Rispondi onestamente. Cercando di non lasciare le risposte neutrali. Noi possiamo anche fare così. Sì, affanculo. Che cazzo ne sa di a me non me ne frega niente di rispondere onestamente. Sì. Bitch. Sì. Un po' di bitch in sottofondo, please. E poi, scusate un attimo, la terza prerogativa, guarda un attimo, cerca di non lasciare risposte neutrali. Ci vuole che ci schieriamo, ci vuole gli uni contro gli altri. Ci vuole solo, allora se non c'è un estremismo, no, non vado, guarda quel poverino, cioè quello lì, col cappello, vabbè, lascia perdere. Dai, andiamo, queste allora, Gege, vai. Raramente ti senti una persona insicura. Approvo due, perché effettivamente non è proprio raramente, però neanche spesso, quindi approvo due. Onesto, vero? Brava. Onesto. Non mi sto facendo vincere dal botto. Sono io che vinco il botto. Perché non sono una persona insicura, bitch. Allora, Rev, non hai difficoltà a elaborare uno scadenziario personale e rispettarlo. Siamo sempre sui calendari, le agende, comunque il calendario dell'avvento, Natale. Ma sì, dai, diciamo approvo uno che non ho difficoltà, perché in verità ce l'ho, però va bene. Mi dico a me stesso di non avercela. Ah, quindi siamo già sulle menzogne. No, cioè la macchina lo sa. Così, è proprio così. La macchina lo sa se meno. Radio Wombat 17:22 25 novembre direttissima. Ne portiamo la macchina. Oddio, la gente se n'è andata proprio malissimo. No, erano in 5-0 così. Ora sono 4, anche una macchina se n'è andata. Si è sparato un colpo in testa e staccate i cavi da su. Sarà per quella cosa che quando ci abbiamo provato a unirci, non era forse così. Forse c'è non era immediato. Momento in cui c'erano 5 persone e abbiamo iniziato a delirare totalmente. Forse dovremmo unirci contro la macchina. Forse avevamo paura. Forse erano altre macchine che si spacciavano per i nostri ascoltatori. Forse abbiamo perso totalmente il controllo. E non ci caschiamo, va bene. Forse Sergio sei un agente. Comunque, quando si tratta di lavoro di gruppo, avere ragione è più importante che essere collaborativi. Come si fa? Let me search it and find out how hard I gotta work. Yeah, it's your permitted plan. Dipende. Dai, su. A volte è proprio una questione di principio. Io approverei uno. Approvo uno. Va bene, comunque, perché lui sa di avere degli obiettivi chiari. E sono onesto, comunque. Dico cose scomode. E poi è superiore. Esatto. Gege. Ritieni che le opinioni di tutti debbano essere rispettate, indipendentemente dal fatto che siano meno supportate dai fatti? Sì, approvo due. Non approfondirò la risposta. Revs, senti che i tuoi livelli di energia sono maggiori dopo aver trascorso del tempo con un gruppo di persone? No, disapprovo due. Disapprovo. Via, posto di merda. Oh, bello questo. Serge, semplice. Perdi spesso le cose. Approvo 10. Spessissimo, troppo spesso. Ti capisco. Gen-Gen. Ma mannaia. ti consideri una persona molto stabile emotivamente? Allora, il trucco è nel molto. Palesemente non molto. Palesemente non si può. Cioè, molto stabile emotivamente era forse Maria Teresa di Calcutta. Non io. Ma secondo me il vizietto ce l'aveva. Ce l'aveva. Ce l'aveva anche lei, la Mary. Allora, Krishnamurti forse è molto stabile emotivamente. Conoscete Krishnamurti? Krishnamurti. Esatto. Come una persona molto stabile emotivamente, dicevamo. Aspetta, io mi sto perdendo fra il disapprova e l'approva. Inizio a vedere confuso questo viola e questo verde. Ce l'ha fatta la macchina. Approvi se ti consideri stabile. Approvo uno. Ok. Sono abbastanza stabile emotivamente. Abbastanza sì. Abbastanza sì. Ma è più sì che no. Più boh. Tu alla mia destra. Alla destra di Gengè. La tua mente è sempre piena. Sempre piena di idee e progetti inesplorati. Approvo uno, guarda, perché un po' tanto ti perdi, però non esageriamo. Però sempre qualche scoreggia migliore delle altre esce. Sembra una buona metà. Chissà se assumerebbero mai un individuo con queste caratteristiche. Comunque mi stavo chiedendo. Ma non, cioè, perché sono io l'imprenditore? Non la risposta di prima, sì, no, lui io è che assumo la gente. Però noi siamo ormai un tutt'uno alla fine. Ah, è vero, è vero. Ci assumiamo. Molto discordante. Dovremmo stampare la personalità, il profilo personalità e creare un effettivo avatar nel metaverso di Reverendo Pizzocchi e mandare io sappi una cosa, io quando una cosa non mi entra in testa la prima, non mi entra in testa mai. Quindi oramai ti chiami davvero Pizzocchi. Quindi dobbiamo mandare il curriculum in giro per tipo LinkedIn. E vedere che succede. Sono per niente ferito da questo. Vai. Non è assolutamente una cosa personale. Mi scordo anche il nome di mia madre. Va bene? Va benissimo. Serge, non ti definiresti una persona sognatrice? Non ti definiresti. Non approvo. Quanto? 1, 2, 3. Non approvo 3. Perché sei molto sognatrice. Perché sei sognatrice. Sì. Sognatrice. Sei un sognatroce. Sì. Oh. Salutiamo ancora Sergio Mattarella in ascolto e l'unico complimenti rimasto. Tra l'altro per un altro mandato. Di solito Gegè, di solito trovi difficile rilassarti quando stai parlando davanti a molte persone? No, anzi forse mi rilasso troppo e inizio a vagare invece di dire le cose in maniera ordinata, perché non mi prendo dall'ansia. Certe volte è male perché un po' di ansia ti può far stare un po' più sull'attenti e invece parto a diritto a dire stronzate. Non mi perdo nei discorsi, quindi disapprova. Tre. In linea di massima. Reverendo, ti basi più sulla tua esperienza che sulla tua immaginazione. Ma cioè, devo dire che in generale la mia immaginazione c'è un ruolo abbastanza forte, ma l'esperienza sicuramente prevale. Okay. Per cui sì, metto una prova a uno che ci sta. Secondo me ci sta. Minchia. Non è neutrale. Prova uno. Però è un po' più in là che di qua. Sì. Quindi abbiamo detto l'esperienza. Esperienza provo esperienza. Sergio, ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri. Troppo no, ma neanche troppo poco. Il troppo stroppia, poco sprocchia. E direi se non è zuppa. Uno, approvo uno. Dai. Se non è zuppa. È cavaldonato. Giusto. Quindi ti ho detto approva. Approvo uno. Eri sicuro? Confermi? Non sarò mai sicuro, ma queste le discutiamo magari in altre sedi. Guarda, magari questa domanda può confermare o ribaltare il risultato. Gigi, se la stanza è piena, stai vicino ai muri, evitando il centro. Questa sembra una domanda banale, in realtà non lo è per niente. Beh, però mi trasuda proprio di degli studi, dei comportamenti. Sì, ti giuro, mi sta facendo malissimo. Tipo, se tieni le braccia incrociate vuol dire che non sei per niente predisposto ad ascoltare quello certo. Che ti sta dicendo quell'altro. È chiaro. Ma sentite perché stiamo rispondendo in tre a questo testo. Facendo cagare. Malissimo questa cosa, ma davvero mi ha rovinato il pomeriggio. Dai, andiamo avanti con questo test di merda. Gengè, stai in mezzo o vai muri? Ora rivendico la mia libertà di non rispondere a questa domanda del cazzo. No, la macchina lo sa comunque. È bene che lo sappia. Io sto già leggendo la prossima domanda. Ma chi, a chi tocca leggere? A me, cioè a te, a me. A te verso di me. Ok. Sì. Io contro tre. Tre. Ti. Hai la tendenza a procrastinare fino a quando non c'è abbastanza tempo per fare tutto. Fare tutto non lo so, però quindi bla bla bla, no, disapprovo, disapprovo due. Cioè riesci piuttosto... a fare le cose abbastanza in tempo? No, no, ah, questo. Oddio, no vabbè, disapprovo due, vai, chi se ne frega. Io ho capito un'altra cosa. La cosa è, no, procrastini? Ma... sei una persona che procrastina nella vita? Questa è la domanda. Ma cosa dice, fanno difficile, fino, ma cosa vuol dire fino a quando non c'è abbastanza tempo per fare tutto? All'ultimo, fino all'ultimo, Rev. No, ma fino a quando non c'è... all'ultimo, vabbè, vabbè. Due secondi prima del cazzo di esame stai lì a vedere, vabbè, l'ultimo capitolo. Ma metti neutrale, non mi interessa. Sì, ci siamo, non mi interessa. Ora noi siamo nella fase boicott. Sì, ma da mo. Vabbè, tanto siamo tipo al 90%, sì. Siamo quasi a fine. E allora prima del finale manderei i nostri consigli per gli acquisti, i nostri spot. Quali sono? Quali sono? Sono bevi birra Moretti, no? Amaro la vita. Volete... no, non... abbiamo formattato il computer, non c'abbiamo più questi spottini. Vabbè, allora almeno possiamo mettere almeno una canzone, pezzaccio. Però. Ma le canzoni che avevamo scaricato prima sono disponibili? Sì, sono qua. C'abbiamo... mettici un bel Enzo Avitabile, vai. Esatto. Qualcosa esatto, che piaccia esatto. Alle macchine che ci stanno ascoltando. Enzo Avitabile, cosa... secondo me, non piace molto alle macchine. Facciamo prima la struttura. Vai, facciamo che ho contato. 1, 2, 3, 4. Ok. Già lui suona però, eh? Guardo mondo e vinto mondo se mo e chi è vera argento ghiaccia sarra tro e la confonde na arrugginisce e cade e valigi con spav e paura rai canco e molula toro e moluca nelle lene mune a gianca e moluca Toria io monuca, in la venine monuti la. Ai e penisari me dene dene dene con la mano in mano. Rinda stu fritta che fa. O viente che bene, o viente che fa. Mano in mano, sotto nucele zulu. O viente per sempre, o viente mai più. Beccano con. Allora, siete sempre all'ascolto di Radio Wombat, qua con un po' troppa qualità musicale, quindi devo anche dire. Che un po' stona con la qualità radiofonica. Antecedente, sì, sì, sì. E successiva. Ricordiamo alle entità all'ascolto che siamo sempre qua da ormai 2 ore a rispondere a questo test della personalità. Che ci sta portando finiti. Naturalmente, io sto sudando. Sì, forse è l'amaro della vita che mi sta facendo sudare, però daremo la colpa comunque al test. Ma ne varrà la pena per la crasi finale. Assolutamente. Saremo ricompensati sicuramente. Allora, a questa domanda non mi ricordo chi doveva rispondere. Nemmeno io, tu. Io. Ok, allora, grande Serge, provi molta ansia nelle situazioni stressanti. Questa musica stressante. No, non credo. Saprei neanche quali siano le situazioni stressanti, diciamo, per questo test. Quindi questo test è una situazione stressante. Ti senti in ansia? Sì, allora sì, approvo uno. Vai. Approvo uno, dai, un po' d'ansietta nella situazione. Sì, anche all'inizio ero un po' agitato. Sono tuttora molto agitato. Sto sudando, vorrei togliermi il pile, ma puzzo. Puzzo, e quindi anch'io decido di tenere tutto il più racchiuso possibile. Giusto. E Gen Gen, vai. Ritieni che sia più gratificante essere apprezzati dagli altri piuttosto che essere potenti? Che cazzo significa potenti? Vabbè, potenti, diciamo che magari intendono proprio potenza. Secondo me l'hanno, no, secondo me l'hanno tradotto dall'inglese male. Secondo me era tipo empowered, tipo mega, you're amazing, you're empowered, you're alive. Perché vuoi fuggire alla, cioè, ma perché che vuol dire in italiano potenti? Vogliamo parlare della potenza, il potere, vogliamo iniziare a fare un... ma potenti, cioè, è strano, capito? Potenti, che vuol dire? Chi è potente? Senti, io non aprirei questa parentesi. Darth Vader, che cazzo significa potente? Sì, io mi vedo più Darth Vader, sì. Comunque ritieni che sia più gratificante essere apprezzato dagli altri piuttosto che essere potenti? No, a questo punto dico no. Cioè, essere apprezzato dagli altri vuol dire che sei una brava persona comunque. E diciamo, in certo diciamo modo, no? Quindi sì, preferisci essere potente. Approvo due. Potenti, cioè, non ho capito che intende, quindi approvo due e basta. Giusto, sì, fa finta di non sapere intanto. No, Gen Gen è così. Gen Gen piace alle persone. Sì. Ci sta, è coerente. Sì. Rebs, hai sempre provato interesse per cose non convenzionali, ambigue, insomma, ad esempio libri, opere d'arte o film? Sì, cioè, cioè, interessante, non vedendo. Convenzionale, cioè, alternativo. Sì. È super fuori dagli schemi, te sì, lo senti? Assolutamente sto leggendo, approvo tre, perché cioè leggo dei libri veramente ambigui. Cioè, tipo Mein Kampf. Una bomba. Però è super, super, cioè ti fa riflettere. Sì, no? Ma se leggi tra le righe, cioè vedi proprio Satana. Una persona distrutta, cioè quel povero Hitler. Alla fine è una vittima della storia. È ambiguo, stiamo dicendo, è ambiguo. Questo, ragazzi. Voglio solo dire che è ambiguo. Dai, no, vabbè, approvo tre comunque. Sì, abbiamo approvato tre. Prego Sergio. Molto alternativo il reverendo, comunque. Immaginavo così. Pensavo più schematico, organizzato. No, no, no, no, io sto fuori, tu non hai capito. Faccio parte dei movimenti sociali. Ah, ok, sei anti. Ho capito. Infatti, e poi licenze i suoi lavoratori. Assolutamente. Quando si parla di produttività. Allora, caro, prendi spesso l'iniziativa nelle situazioni sociali? No. Iniziativa, ok. Quindi no, disapprova? Disapprovo due, non sono per niente una buona miccia. Però sei un buon combustibile. Sì. Diciamolo. Risultati, ragazzi. No, ah, oh, così, no. Aspetta. Allora, andiamo prima un piccolo stacco musica, un minuto, qualcosa anche di glorioso. Anche dobbiamo leggere questa roba di... che è anche parecchio complicata. Oddio, no. Zero spoiler, no spoiler. No. Come faccio? Un po' qualcosa di sei tu che guardi lo schermo. Che come faccio? No, io vorrei qualcosa di suspensico, qualcosa alla Profondo Rosso, il Goblin, un po' di Vabbè, uno stacchetto per entrare. Perfetto. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the pamper. And the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue to deepen. I guess that cunt getting eaten. I guess that cunt getting eaten. non ce la stiamo facendo. Allora dobbiamo togliere sto tappetino, cioè togliamolo, semplicemente lo mettiamo più basso perché cioè, ci hanno dato le risposte. Sì. È da un'ora e mezzo che ci spremiamo le meningi. Per cosa poi? Per cosa? Per questo, per questa grande rivelazione. Siamo dei mediatori. Allora, infop A. Allora, partiamo con una statistica così, perché così sappiamo che stiamo parlando di cose reali, perché ci sono le percentuali. Un po' di dati. Allora, capitolo mente. 51% introverso, 49% estroverso, quindi siamo un po' a metà. Okay. Quindi siamo un po' ambigui, dei mediatori, da, no? Cioè, mediamo anche tra la nostra interiorità e esteriorità. Ma era come dicevo, cioè, sì, comunque siamo abbastanza in equilibrio tra il fuori e il dentro. Sì. Cioè, torna tra Freud e Jung. Sì, tra Freud e Jung. Jung. Comunque, no, io mi sento molto rappresentato da questa percentuale. Devo dire che anche abbastanza esaustiva sul problema della mente. Aspetta di sentire le altre. Energia. Energia 70% intuitivo, 30% realistico. Cioè, che ce frega della realtà? Noi siamo intuitivi, cioè andiamo così subito. Questo giusto, è uno schiaffo giusto, della testa. Giusto. E proprio perché di realtà parliamo, c'è il capitolo natura. Che vuol dire natura? Natura. Cioè, natura sì. Focalizzato sui principi 65%, focalizzato sulla logica 35%. Di nuovo, cioè a me della realtà non me ne frega un cazzo. La realtà ci ha rotto le palle, eh? Non ce ne frega niente. La qualità ci ha rotto il cazzo. Ma avremo sicuramente assunti dopo questa. Vero? Ah, aspetta, ma c'è di più, ci sono altre statistiche. Oddio. La tattica. Dici Gengè. 74% focalizzato sulla ricerca. Eila. 26% focalizzato sulla pianificazione. Questo l'abbiamo capito, non sappiamo pianificare. Sulla panificazione di più, secondo cosa me c'entra con la tattica. Beh, comunque direi che questa è la statistica con una percentuale più alta di 74. Sì. Le altre erano più basse. Vabbè. Energia, sulla tattica siamo molto sbilanciati, molto no, ma allora questo è importantissimo. L'ultimo capitolo è l'identità. Vedi, lui è focalizzato sui principi. Lui, la parte è focalizzata sui principi. Ed è indignata la parte focalizzata sui principi. Ma in quanto poi superiore, vabbè. Però in questo modo confermi questa cosa. Certo. Identità: 51% determinato, 49% prudente. Perché noi siamo delle bezzo. Possiamo dirlo. Fearless, senza limiti. No, l'unico limite è the one you set yourself, come my diceva mia nonna. My God, it's amazing. Sì, sì. Oh, mia Dio, figa! Tutti sanno che c'ho la macchina. Vabbè, anche questa l'abbiamo già messa varie volte, però però bello. Ci stava, grazie, ecco. Grazie. Io non l'avevo mai sentita, quindi... Io c'ho la macchina. Io c'ho la macchina. Sì. Io la macchina. Dai, leggiamo in fretta sta roba e chiudiamola, vi prego. Vai, sì, è stato un parto trigemellare. Io non verrò mai più. Abbiamo terrorizzato Sergio. Mi dispiace. Non si vorrà mai più far rieleggere allo studio di Fritter. Mi dispiace. Vabbè. Allora, la personalità del mediatore, cosa si dice? Il 16 personalities test. La personalità del mediatore sono idealiste convinte, cioè sempre alla ricerca di un accenno di buono anche nelle persone negli eventi peggiori, di modi per rendere le cose migliori. Sebbene possano essere percepiti come calmi, riservati o persino timidi, i mediatori hanno una fiamma, è una passione interiore che devono davvero risplendere. Sì. Brilliamo. Le faremo la brillante. Allora, le faremo risplendere. Dottore, dovunque tu sia, noi brilliamo. Questo è per pochi. Comprendente solo il 4% della popolazione, è purtroppo elevato il rischio che il tipo di personalità del mediatore si senta incompreso. Cioè, dati alla mano, cioè dati alla 4% mano. Delle persone sono mediatori. Mediatori, ok, c'è cioè proprio ecco statistiche. Sì. Certo, i dati, 4%. La scienza. Okay. Quindi siamo specialissimi, non sbaglio. Siamo così rari, come dei diamanti. Perfetto. Però ci sentiamo incompresi perché siamo dei diamanti che nella nostra brillantezza insomma non è facile, rischiamo di accecare e di essere incompresi. Tuttavia, quando scopriamo persone con mentalità simile con cui trascorrere il proprio tempo, l'armonia che proveremo sarà fonte di gioia e ispirazione. Puoi descrivere anche il disegnino che per... Allora, posso rileggere questa citazione perché mi appartiene molto. Non è tutto oro quel che luccica, non tutti coloro che vagano sono perduti, i vecchi che sono forti non appassiscono, le radici profonde non sono raggiunte dal gelo. J.R.R. Tolkien, ok? Non a caso. Non si scherza. J.R.R. Tolkien, a parte che la, questa traduzione sì, fa cagare, però vabbè. L'aveva fatta dire a Frodo Baggins questa frase, me lo ricordo benissimo. Nella pietra filosofale, sì, mi ricordo benissimo questo passaggio. No, in realtà questa è una filastro, vabbè. Non era Kill Bill. Non mi ricordo. Comunque io non sono... Comunque ci sono tipo 14 pagine di cose, quindi possiamo scendere no, a caso. No, è poco. No, è no, poco. Non hai capito. Qua c'è strength and weaknesses. Oddio, c'è un sacco di roba, non hai capito. No, dai, veloce, veloce. Dove? La voglio leggere tutto. Tutto. A questo punto strength and weaknesses. No, no, ma tu hai abbiamo finito di leggere questa pagina. No, questo non abbiamo finito, ma è lunga, vabbè, vai. I mediatori sono guidati dai propri principi invece che dalla logica, l'entusiasmo, la praticità. Al momento di decidere come andare avanti, i mediatori cercano onore, bellezza, morale, la virtù. Sono guidati dalla purezza del loro intento, non da premi e punizioni. Ma le persone che condividono il tipo di personalità del mediatore sono orgogliose di questa qualità, giustamente, ma non tutti comprendono il potere che risiede dietro quei sentimenti e già può portare all'isolamento. In verità mi sono già annoiato. Io non ho capito se è un bene o un male. Cioè se siamo... Possiamo leggere frasi random. Solo le robe in grassetto leggiamo. Dove sono? Ah, sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo ciò che potremmo essere. Non capisco se... Get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Come pop it like it's hot. Come on. I'm pouring Chandon and I'm full of best. Cause I got it going on. I'm a gangster. Beh, ringraziamo intanto Snoop Dogg, un altro grandissimo mediatore dei nostri tempi. E ci sono delle personalità, se vai in fondo, ci sono dei grandi mediatori del passato, del presente. Come Tolkien. Come Tolkien. Come William Shakespeare. Bjork. E Alicia Keys. Ah, ma c'è una freccetta, c'è Tom Hiddleston che c'ha due banane in braccio. Giulia Roberts, incredibile. William Wordsworth. Johnny Depp. Frodo Baggins. Io mi sento estremamente rappresentata da Frodo Baggins, comunque, quindi vuol dire che tutto questo ha una validità scientifica. Io vero, è vero, cioè, è tutto messo, vero. Vabbè. Ah, c'è anche Amélie Poulain. Anche Arwen. Arwen. Cioè, ma con che hanno messo? Chi è sta gente? Constantin Levin. No, non la conosciamo. Anna Karenina. Ah, quindi va bene. Va bene. Io davvero. Andiamo a Strength and Weakness. Hanno messo insieme Johnny Depp, Wordsworth e Frodo Baggins. E Jared Tolkien. Non capisco. Cosa vogliono cercare? Comunque, siamo empatetici, generosi, open minded, creativi, appassionati, idealistici. E mentre le nostre debolezze sono che siamo irrealistici, siamo self isolating, cioè ci isoliamo da soli. Siamo confusi. Siamo confusi, quello sicuramente. Siamo fuori fuoco, unfocused, sconcentrati, emozionalmente vulnerabili. Siamo da questo che tu le tue emozioni. Siamo disperati a piacere, a please. Desperate to please, alla piacenza. Esatto. E poi siamo self critical, che attenzione, è messo come una debolezza essere self critical. Oddio buono, critica gli altri, che devi stare a criticare. Ma giusto. Oh, però qua viene, you're amazing. Qua viene il bello romantic relationships. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Hopeless, romantics. Allora, su questo non si può dire nient'altro. Mediators share a belief that two people can come together in a relationship and make each other better and happier than they were before. Quindi siamo praticamente mono amatonormatività. Siamo monoamatori. Monoamatonormativi. Quindi cioè monogamia, portami via, cioè romantico, quindi romantico significa che due persone sono insieme e mettono e si rendono felici molto più di prima, perché comunque la felicità assoluta è nell'amore, giustamente. Comunque vero. Per me arrivare a questa alla mia veneranda reverenda età e scoprire di essere un mediatore non l'accetti. È davvero la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ma non sei tu il mediatore, è la nostra Siamo crasi. Siamo noi, è la nostra crasi ad essere mediatrici. Che bello, grazie. Beh, grazie davvero. Che poi forse c'è, cioè, qualcosa di comunque profetico. C'è, cioè, una crasi di tre personalità. È mediatrice, perché è di per sé una mediazione tra le nostre personalità. Calano gli occhiali da sole immediatamente su Ginger. Se li avessi. Reverendo, ma il nostro tempo scorre. Sei meno 10, mi sa che dobbiamo andare verso la fine. Non abbiamo tempo di leggere l'articolo del perché le persone giovani non trombano più. Ah, è vero, abbiamo preparato questa chicca. Mi sa che sarà per la prossima, sì, reverendo. Sì, sì, sì. Alla prossima, al prossimo appuntamento. Possiamo dirlo alle teleascoltatroci. Che forse non diciamo quando, non diciamo perché, non diciamo come, ma forse ci sarà la seconda puntata dell'arte dell'orifizio prossimamente, le prossime domeniche. Vero, io spero spassionatamente di sì, proprio perché voglio mediare tra le cazzate e le cazzate un po' più serie. Per cui dai, mettiamo insieme un po' di pezzi, chiamiamo il dottore, chiamiamo Palmiro, chiamiamo Dracula, Bright, la giovane Bright, e ricominciamo a molla. Sì, facciamo anche gli auguri ad Albus Silente, che speriamo ci ascolti dal profondo del suo ano. Dal profondo del suo oblio, del suo orifizio. Questo mi fa piacere la distinzione tra cazzate e cazzate più serie, cioè che non ci sia una via d'uscita dalle cazzate è una cosa che mi stimola molto. Sicuramente no. Sicuramente non all'arte del vizio. Reverendo, a te l'onore, nonché onere, di scegliere la canzone che concluderà questa deriva, perché poi alla fine non era nient'altro che una deriva. Sì, andiamo un po' indietro sull'oceano delle frequenze medie. Piangiamo. Posso ancora insultare il robot che ci stanno ascoltando? Sentiti libero. Allora, sapete, davvero io vi detesto perché con questo fatto che vi fingete di essere umani all'ascolto, che ci... scusate, c'è un altro robot che si è aggiunto, sono 6 ascoltatori, quindi forse non è vero. E allora a questo punto agli umanoidi e altri esseri che ci stanno ascoltando, grazie davvero. I don't feel the way that I've been feeling before.